E la sveglia già che suona, porca loca, è già l'ora. Devo alzarmi in tutta fretta per andare a lavorare, e con gli occhi abbottonati faccio un po' di colazione, mentre il cuore dorme ancora attaccato a quel lampione. Se quella sveglia che suonava più riprese, col cuscino sopra il capo, gli occhi stretti intorno a un sogno, non volevo più svegliarmi, troppo bello era il mio sogno. Oh yeah, un giorno ho detto no. Alberi abbattuti, quanti fiumi agonizzanti, che nel nome del progresso uccidiamo tra balli e canti. Quanta invidia e ipocrisia c'è nei volti della gente, nei signori con la frusta, nei signori della